fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza. Spero se non sclero, ma ho un fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza. Yeah. Nella mia strada c'era solo weed, la lean, la X, credevo di stare wow. Cambierò, I will, glielo dicevo ai miei brother. Non ho prove, sorry, ma lo dicevo come un clone che mi clona clean, cringe. Non farò ciò che lui vuole, perché l'ho fatto e tanto scappo a chiedere pardon, signore. Perdo lo sguardo, scambio l'astio per una frase dal cuore, ma poi sembra finto e mi gela. Va contro la scienza e mi esplode, ma che ci manca su storie. Non hai mai fatto un cazzo, trattmo, ne sono grato e memorie. Sono con Dio, non sono col diablo, non mi imbarazzo, non no man. Sei già finito, gridano il mito, ma non so se il destro o il sinistro, sei un mio coglione. Ho un fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza. Spero se non sclero, ma ho un fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza. C'è sempre quella voce che fa oh. Nella mia testa un casino con l'accento sulla O. Io punto tutto ciò che ho perché vivo all'istante. Io sono l'eccezione bro, di regole infrante. Ehi, la scuola uccide i sogni, insegna come stare sugli attenti ed eseguire gli ordini. Nessuno poi ti spiega come gestire i soldi, così puoi indebitarti per il resto dei tuoi giorni. Ricorda di scordarti, dimentichiamo i morti, ma viviamo per impressionare gli altri. Fanculo le manie, oh. Il mondo è tuo tra le mani mie. Ho un fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza. Spero se non sclero, ma ho un fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai senza. Bro, se fumo ritroverò la mia essenza.